Quindi noi in neurochirurgia, adesso speriamo che parte questo, in neurochirurgia abbiamo un contatto costante perché la fisioterapia è fondamentale nel post-operatorio. Molti pazienti un tempo si perdevano, non sapevamo, non c'era la tecnica di fisioterapia sufficiente per il recupero del paraplegico, del tetraplegico, dell'emiplegico. Allora, quando parlo di tetraplegico, emiplegico, tetraplegico, paraplegico, capite il concetto oppure lo dobbiamo spiegare? Lo possiamo ancora spiegare? Voi avete già fatto un po' di neuro? Sì. Quindi vi hanno detto che cos'è il paraplegico? Sì. Quindi allora paraplegico non muove entrambe le gambe, vero? Monoplegico non muove un arco dei quattro. Monoplegico arco inferiore, monoplegico arco superiore, emiplegico. E vabbè, tetraplegico di quattro arti. Quindi per avere un tetraplegico dovremmo avere una lesione a che livello? Cervicale, perché a livello lombare avremo un paraplegico, perché naturalmente la volontà ha il modo di estrinsecarsi agli arti superiori, in quanto lo stop, la frattura, il danno è più basso. Comunque questi sono concetti essenziali e non è che noi dobbiamo andare chissà a quali eccelsi livelli, perché quello che dobbiamo sempre ricordare è che le cose semplici sono le cose più efficaci. Quando si cominciano a fare tanti ragionamenti intorno a un problema, o non è chiaro in chi lo sta spiegando, oppure si vuole creare, diciamo, un'atmosfera di difficoltà, di importanza. Insomma, ci sono anche elementi che non sono a favore di una bella trasmissione semplice dei concetti. Allora, io qui spengo gli accendo perché mi pare che non legge il mondo. Io ho una semplice presentazione in cui è trattata tutta la neurochirurgia a livello non censo, a livello studentesco, potrebbe andare bene pure per i primi anni di medicina per spiegare cos'è la neurochirurgia. Le cose che ci tengono tutti i neurochirurgi, oltre a dire che la fisioterapia ha salvato tanti giovani tetraplegici e si sono messi in piedi con dei tutori, con degli esercizi particolari, con il rinforzo dell'arto ancora meno paretico. C'è differenza tra paresi e plegia. La paresi non è la completa assenza di forza. Ora, oltre a dire questo, che poi è un concetto che vi dovrebbe far piacere, il secondo concetto che dobbiamo ricordarvi, ma speriamo che non si blocca perché generalmente si blocca, è che esiste un dolore da impresa, cioè noi siamo stati un po' martellati nel passato da situazioni di non perfetto recupero di dolore. Una persona che magari ha recuperato la forza sta recuperando la forza, però sono notevoli le lamentele sul dolore. Ora, questo forse non è scritto nei libri, però si può dire che sia uno dei messaggi più importanti che voglio lasciare, e che se non venite a lezione, poi è chiaro che se poi a lezione, all'esame non lo sanno, è chiaro che insomma non è che ci sia la volontà di... Però insomma è un concetto a cui ogni professore ha le sue preferenze e ritiene di dover trasmettere delle cose utili anche all'attività del futuro fisioterapista, del futuro medico. E quindi, concludendo, come dico subito il succo, che esiste un dolore da reinnervazione. Quindi ammettiamo anche una banale ernia del disco, una banale ernia del disco che comunque, se voi sapete, abbiamo cominciato a parlare negli anni 40, prima non c'era questo dolore, gli antichi romani alla fine si mettevano delle scarpe con una specie di mola di codivilla perché cadeva il piede, però voi sapete che andando via la forza molto spesso se ne va pure il dolore. Anticamente quella era la strada, era la strada che perdevano la forza e comunemente perdevano naturalmente anche la sensibilità. E quindi poi successivamente addirittura quando nel 1500, 1500 c'erano delle scarpe che avevano un filo sulla punta e la punta veniva con questo filo sostenuta al ginocchio affinché non cadesse, e c'erano persone che avevano avuto un edema al disco, avevano avuto il tranciamento della radice, e quindi ovviamente se per esempio cadeva il piede, normalmente era la quarta radice lombare, le 4 e 5, che veniva ad essere tranciata, e quindi non c'era la flessione dorsale. La flessione plantare invece normalmente, secondo i concetti più ovvi, poi ci sono delle variazioni perché l'ernia può essere centrale, laterale, ma questo non mi interessa più di tanto. Allora abbiamo un disturbo della flessione plantare per cui non riesce a stare sulla punta di quel piede, e la deambulazione anche in questo caso aveva bisogno di qualche protesi che gli antichi artigiani facevano. Però anche una banale del disco che spesso viene in epoca lavorativa, magari è un atleta o un giovane che fa sport, gliela togli, se non gli spieghi bene che ci vuole tempo dopo che togli l'ernia che sparisca completamente il fastidio. Alcuni lo ritengono fastidio, alcuni lo ritengono dolore, alcuni lo ritengono formicolio, a seconda delle ansie o della quantità di fastidio, ma glielo devi dire prima e lo dovete sapere anche voi, perché voi lo devono sapere anche i parenti. Una banale del disco, dico io, sto dicendo del disco, collega, anche una banale del disco può creare una serie di problemi, diciamo, per cui se non glielo dici prima perdono la fiducia. Allora cosa bisogna dire? Bisogna dire che questo, ripeto, è il concetto generale a cui ci teniamo, poi dopo il resto è cultura che vi serve. Normalmente le cellule sono 10 millesimi di millimetro e ne abbiamo in un dito milioni. Per fare il nervo sciatico non sono milioni di mattoni uno dopo l'altro, ma sono cellule 10 millesimi di millimetro posizionate dove? Chi vi risponde? Per fare il nervo sciatico sono il nervo sciatico più o meno grande così, poco più, fatto da milioni di fibre di spessore 7 milionesimi di millimetro. Quindi per fare un nervo così grande, più grosso del nostro corpo, ce ne sono tante, ma la cellula non è che è fatta di tante, questo filamento non è fatto di tanti mattoni come siamo fatti noi, per cui se prendiamo una mano, ce ne sono miliardi di cellule tutte a mosaico, il nervo sciatico è fatto da tanti filamenti, la cellula produttrice di questo filamento dove si trova? Nel midollo, quella motoria, quella sensitiva si trova nel ganglio spinale. Ora, queste cellule sono grandi 10 millesimi di millimetro, però hanno questa stranezza che sono dei giganti, perché a differenza delle normali cellule il suo prolungamento sottilissimo si allunga niente di meno per 1,20 m, oppure anche nei soggetti che fanno pallacanestro 1,30 m, 1,40 m, nel bassino arriviamo a 90 cm, ma sono cellule di 90 cm, è una cellula, sono tante cellule che fanno un filamento vicino all'altro per fare un nervo grosso così, più grosso che abbiamo noi. Per esempio nei cetacei è roba di cellule che si allungano per, penso, 12 metri, cellule enormi. Le stesse cellule con cui l'animale è nato, crescendo, si allunga. Allora voi immaginate, se c'è un nervo nel disco che quasi seziona una buona percentuale di queste fibre sensitive, perché non tutte ovviamente, molte soffrono, altre sono proprio... Quando c'è uno schiacciamento di un nervo a valle, dopo questo schiacciamento, questo concetto è il concetto che chiediamo agli esami, fondamentale. Dopo lo schiacciamento si crea una degenerazione del nervo, chiamata degenerazione valleriana. E come avete visto mai la ragazzina, la lumaca, quando toccate l'occhio rientra, avete mai giocato con la lumaca? Rientra. Così fa il nervo, come se qualcuno toccasse da quel punto, torna indietro il nervo. Quando togli l'ernia, dopo un mese comincia di nuovo l'occhio della lumaca ad allungarsi e deve arrivare niente di meno fino al piede. Ma il motore che produce questa nuova sostanza nervosa, che deve riempire questo tunnel gigantesco per la cellula, che è 10 millesimi di millimetro, è lungo, io penso, attorno, comunemente attorno a 90 cm. Quindi finché nel cetaceo pare che cresca quasi 3-4 mm al giorno il nervo sciatico sezionato, schiacciato e poi... Invece nell'uomo pare che cresca non più di mezzo millimetro al giorno. Se voi fate il conto, immaginate che, per esempio, una cellula fosse grande quanto noi, il paragone è che noi avremmo la sensibilità di tutta l'Africa, il Mediterraneo, tutta l'Italia, fino ad arrivare a Città del Capo in Sudafrica. Quindi sapremmo freddo, caldo laggiù. Se ci fosse una costruzione in Sicilia, diciamo, su questo nostro prolungamento sensitivo, da qui voi doveste cominciare a mandare giù materiale a superare il Mediterraneo, l'Egitto, l'Equatore, insomma è un lavorone, la cellula lavora e quindi è ipersensibile. Se voi come fisioterapisti storcete il naso su soggetti che magari vogliono lavorare perché hanno il mutuo, hanno i 4 figli e hanno dei problemi, per cui pare che non si riprende più, il dolore sarà eterno. Prima noi eravamo soggetti a queste cose perché non avevamo la diagnostica, avevamo la puntura lombare. Quando ho cominciato io l'esame per vedere l'ernia, e parliamo della cosa più semplice, però è quella che vi capita più frequentemente, era un ago, olio di sesamo bollito, mescolato agli olio. E bisognava pungere il paziente, il quale già c'aveva dolori. Bisognava svuotare il liquor e sostituire questo liquor con questo olio chiamato Lipiodol. Dice, ma è sterile, non procura nessun problema. Rimaneva a vita nel sacco durale e poi quando il paziente si piegava andava a finire al cervello, rimaneva nel cervello. Quindi rifaceva tante palline di olio nel cervello. Quando tornavano con i dolori da rinervazione, che chiamiamo oggi tali, il medico, pur volendo dimostrare che aveva operato bene, stava la situazione, l'intervento l'abbiamo tolta, ecco l'ernia, tutto a posto, non ha avuto la febbre, non ha avuto niente, ma a me mi fa male, facciamo un'altra puntura, altro olio che brucia, perché c'è lo iodio, quindi i nervi non è che sono, gradiscono di stare in mezzo a questo olio che non è naturale che ci sia. Si formano delle aderenze, il paziente perdeva fiducia, andava all'altro ospedale, lo rioperavano, non c'era niente. Aprivano addirittura, perché quando si toglie l'ernia non si apre la dura, si toglie l'ernia che è extradurale, no? La dura, l'ernia è un anello, diciamo, vertebrale, dove c'è il nucleo corposo tra le due vertebre, poi lo vedremo. La dura non viene quasi mai aperta, invece in quel caso c'è la dura, si vedevano bene i nervi, non ci stava granché, c'era un po' di appiccicume di questo lipido, si chiudeva peggio di prima, quindi la gente che si rovinava, poi andavano il percorso era Roma, Alto Roma, Firenze, Genova, Lione, Zurigo e poi si vendevano la casa, così. Per queste sciocchezze, perché non sapevamo, e noi con la risonanza magnetica adesso siamo tranquilli, abbiamo visto che non ci sta il problema, non ci sono fattori di infiammazione, sappiamo che c'è il dolore della rinervazione perché, ripeto, il disco l'abbiamo cominciato a operare seriamente negli anni 60-70, prima erano i pionieri e poi bene dagli anni 80 con la risonanza magnetica. Quindi il fisioterapista deve essere, diciamo, psicologicamente deve essere portato a non terrorizzare, e comunque noi, adesso che lo sappiamo, parliamo molto bene con i parenti, prima con il parente, perché se lui è idraulico e prima guadagnava 5.000, adesso con dolore scarso fa 2.000, 3.000, la moglie si preoccupa, se non gli hai spiegato prima vanno nel pallone, e se poi va dal fisioterapista il quale non conosce il dolore della rinervazione è una pena mentale che voi date alla famiglia. Ma questo per l'ernia disco, che poi c'è un'altra, tante altre cose. Prego. Su questo dolore dell'innervazione, no, comunque il fisioterapista, visto che non c'è la componente infiammatoria, no, la chinesi è contraindicata, no, quindi anzi, caspita, anzi, come si fa a dire al paziente, dopo che gli ha spiegato tutto quanto prima, che tutto sommato può stare abbastanza tranquillo, che le cose andranno bene, oltre alla risonanza magnetica, oltre a che gliel'hai spiegato prima, oltre che non ha avuto la febbre, non ha avuto puls, non ha avuto sangue, non ha la forza ancora rimasta come era prima, gli devi dire, vedi, prima dell'operazione più ti sforzavi e più ti faceva male. Dopo l'operazione più ti muovi e più ti si addolcisce il dolore. Perché non essendoci più una compressione, una delle caratteristiche del dolore della rinervazione, altra domanda di esame, è come si fa a distinguere? Normalmente, io dico, poi ci sono delle persone molto ipersensibili che impazziscono o camminando, non camminando, però devi anche aver capito il tipo, perché oggi sono comparsi degli articoli su giornali importanti del mondo scientifici, in cui si dice che c'è una percentuale del 70% di dolore psicogeno nel disco, perché devi pagare il mutuo fra 6 mesi, perché non ti senti di poter correre nella gara. C'è una grossa percentuale per cui devi valutare anche. Oggi negli Stati Uniti fanno due cose: fanno il test psicologico nella pelle del disco, dove c'è una componente sociopatica, disoccupato, eccetera, e poi hanno scoperto che il fumatore, siccome il fumo nicotina è un antidolorifico, per cui ha trovato di più la fatica e il dolore, nicotina, morfina, sono molto simili, hanno una bella funzione antidolorifica. Ma a parte quello, la nicotina hanno scoperto, e l'abbiamo scoperto pure noi, che nei tessuti non irrorati, per esempio il disco, non c'ha i capillari, si profuma di questa nicotina che è peggio dell'aria del mare sui botolini, tende ad ossidare. Quindi quando tu lasci il botolino tutta la stagione sulla spiaggia, te lo ritrovi, diciamo, che è un rotame. La nicotina nel tempo deve evaporare dal disco. Non c'è il sangue che la porta via dal rene, come nel rene, come nel cervello. Nel disco si impregna. Allora, se tu fumi mattina, pomeriggio e sera e c'hai soltanto il sonno quando non fumi, il fumo del giorno prima lo vai a sommare sempre di più in questi tessuti non irrorati. Allora, negli Stati Uniti, dove tutto è a pagamento, non operano più i fumatori. E poi hanno fatto pure un altro trucco a livello di assicurazione, non mi ricordo, importante, che frenava l'accesso alla chirurgia di molti lavoratori, perché poi era una grossa battaglia tra il datore di lavoro, l'assicurazione e il paziente, che dice: io non ci vengo a lavorare, mi devi pagare, non ti pago, eccetera. Però se tu sei un fumatore e non hai smesso, che tra mattina che non affumi assolutamente e notte che dormi, la nicotina del giorno prima la scarichi, non è più profumato, diciamo, il disco di nicotina, perché noi non abbiamo mezzi per lavarlo, ci vuole il tempo, si disperde, va bene. Quindi se voi appunto non vi affiancate a questa opera mentale, torno a dire che praticamente c'è una grossa componente, chiamiamola di paura, perché in fondo non è una malattia. Nel disco se la tiene, parliamo del disco, parliamo anche di cose meno comuni, e non è che uno si ammala di quella cosa. La malattia è in per sé il concetto di un sintomo che va peggiorando, complicandosi fino alla all'exitus, cioè ti si blocca quell'organo, il polmone, il rene, eccetera. E nel caso, diciamo, dell'ernia non abbiamo il problema di ammalarci, è un problema di avere una prestazione molto limitata fisica. Però, per esempio, faccio l'esempio classico del marinaio che fa il giro della petroliera che dura 6 mesi e gli è venuta l'ernia durante il primo viaggio, per cui è guarito, poi stando fermo sulla nave, e però se non guariva lo scaricavano al porto all'estero. Pur di non rischiare questo, viene in Italia, si può operare di ernia. Diciamo che se c'è il sintomo motorio, per cui il riflesso è assente, lo facciamo anche senza dolore. Però loro insistono, perché è un discorso lavorativo di prestazione, mi sono spiegato, è un discorso lavorativo e di prestazione che crea tante di quelle tensioni importanti. Allora noi andremo veloci perché abbiamo poi ci sarà Pastore, comunque ci sarà Pastore che vi ripeterà alcuni concetti, anzi quasi tutti. Io mi soffermo più che altro a livello di vertebre, a livello cervicale, a livello lombare, dorsale. Perché però fare le lezioni con Pastore? Fare le lezioni pure con Pastore? L'avete già fatte? Sì, quindi già sapete. Vabbè, io devo, vado diciamo veloce sul resto, quindi vi faccio qualcosa in più sulla colonna. Però i concetti fondamentali, dicono agli assenti, sono questi che vi ho detto. Diciamo che sono qualificanti per la vostra giusta atteggiamento mentale sul paziente. Avete fatto filmato tutti? Sì. Sì, tutti però, eh? Allora. Quindi avete quante lezioni avete fatto con il pastore? 7. Voi siete di Stella Santa Lucia, vero? Sì, ma io... Satina diceva. Sì. Che anno fate? Della neurologia state ancora facendo esami? Dico lezioni? No. Avete finito? Sì. No, allora mi trovo molto bene che avete già fatto tutto. Velocemente, magari la prossima volta ripetiamo, ma... se avete già fatto con Pastore e con la Palmieri avete già saputo la gran parte. L'esame neurologico è sempre fondamentale, anche per voi. Comunque i nervi cranici, voi sapete, sono 12. Il secondo nervo cranico, va bene, è per la, sapete, per la vista. Il terzo nervo cranico è l'oculomotore, quindi movimenti quasi completi degli occhi, eccetto il quarto che è il patetico, che ruota l'occhio verso l'interno e il basso, e poi il quinto che è la sensibilità sviluppatissima dell'animale, perché va avanti non certo con le mani ma va avanti con il muso, no? Ma ce l'abbiamo anche noi iper sviluppata la sensibilità facciale, protegge l'occhio. Il sesto per ruotare l'occhio verso l'esterno, il settimo la motilità della faccia, l'ottavo ovviamente la sensibilità uditiva e l'equilibrio, il nono l'elevazione del palato con lo sofalangeo, il decimo la deglutizione, l'undicesimo fare le spallucce, sollevare un trapezio, il dodicesimo il movimento della lingua. Ma queste cose già le sapete. La sensibilità, velocemente, la radice C3, il retro dell'orecchio, la C5 a livello della manubrio sternale, la quarta dorsale a livello dei capezzoli, la decima dorsale a livello dell'ombelico, la L4 il malleolo mediale, la L5 la parte dorsale del piede e la S1 la parte laterale del piede. Per quanto riguarda la motilità, ve la perdono. Già queste cose sono abbastanza chiare e non ve le chiediamo. La misurazione della forza a 5 gradi, ma ci sono tanti tipi di misurazione. I riflessi, sapete che il bicipitale controlla la radice C5 C6, il tricipitale la C6 C7, il rotuleo la seconda, terza e quarta lombare, invece la caviglia, la quinta S1 e S2 corrispondono appunto a quelle situazioni che vi accennavo prima nell'antichità, quando avevano problemi molto seri. Questi sono esami che si fanno in coma, quindi voi avete poca importanza a questi. Sappiate comunque che quando non avevamo la risonanza magnetica ci ricordavamo molto con gli esami clinici del paziente in coma. Diciamo in poche parole, quando non hanno il corneale e addirittura non hanno lo stimolo di tosse, quando hanno il tubo che andiamo giù a stimolare la sensibilità tracheale con l'aspiratore, non si muovono senza sedazione, diciamo che è un coma fuori dalla portata terapeutica, a meno che non ci siano ovviamente farmaci che compongono il quadro. Inoltre, come esami più delicati, possiamo dire che se siamo sicuri che non ha danni cervicali, il paziente in coma all'epoca, muovevamo rapidamente la testa, e vedevamo gli occhi girarsi dalla parte opposta, probabilmente l'occhio di bambola. Quindi quando abbiamo il momento di occhio di bambola sappiamo che a livello pontino, sapete cos'è il ponte? Sì, che se c'è un ponte bulbo, a livello pontino il coma non ha danneggiato quelle strutture. Ed è una situazione che si potrebbe ancora nel giovane sperare un recupero dopo tanti mesi. Poi invece, sempre per questi livelli, nel dubbio, facevamo le prove caloriche. Quindi quando iniettavamo acqua fredda nell'orecchio, c'è l'acronimo inglese MUCCA, COO, C-O, doppia, work, no? Cold. Quindi, cold, cold, occhi oppositi, cold, caldo, sedio, summer, cioè, force, mucche, mucche, force. Allora, se io per esempio ho una risonanza magnetica, non è farmacologicamente sedato, voglio capire se c'è una minimo di speranza, perché ancora il ponte funziona, prendo la siringa fredda, inietto acqua fredda nell'orecchio destro, devo vedere gli occhi che vanno dalla parte opposta, va bene? Invece quando non c'è il gang reflex, significa appunto la tosse quando stimola la trachea, è un coma troppo profondo. Ma questo mi interessa relativamente, è curiosità. Vabbè, il trauma cranico ve l'ha fatto Pastore, no? Quando è che si opera un trauma cranico? Quando abbiamo un'evolutività dei danni, normalmente danno un'emiparesi. Il trauma cranico che prende un lato, comprime la regione tirolando, quindi la parte motoria, e se c'è un ematoma che comprime il cervello avremo l'emiparesi controlaterale. Se non c'è il danno motorio, lo stato di coscienza è buono, generalmente non si tocca, anche se c'è del polso che entra un pochettino nel cervello, ma il danno chirurgico potrebbe essere superiore al risultato, per cui lo osserviamo. Se va peggiorando, caso se la ferita è aperta sopra la frattura, allora c'è pericolo di contaminazione. Ma questi sono concetti essenziali. Vedete, ci sono tanti casi di traumatologia, ce ne abbiamo uno adesso che è caduto dall'impalcatura e verso le 5 si deve operare. Vedete come si presenta l'attacco, tutto quel bianco ovviamente è sangue. Questo tipo di diciamo immagine dove c'è un'apertura dell'osso, generalmente è un colpo di arma da fuoco. Quando vedete questo sbuffo così, generalmente è un colpo di arma da fuoco con questa apertura dell'osso. E non sempre si operano. Naturalmente il casco evita il danno primario, se non c'è il casco abbiamo dei problemi, oggi anche sugli sci mettono il casco, perché veramente, e naturalmente credo che anche gli adulti dovrebbero farlo, è obbligatorio per i ragazzini, ma anche gli adulti, perché sono grossi rischi. Ma dove noi siamo chiamati in causa? Collega, senti, dove siamo chiamati in causa non è il danno primario ma il danno secondario, per evitare che vada funzionando come con l'emorragia, con l'edema intorno alla ferita, intorno alla tangia, quindi l'ischemia, l'infezione. Quindi noi dobbiamo evitare il danno secondario. Il secondario c'è scritto qua, vedete un po' di inglese, lo sapete? È un danno che questo tipo di danno è potenziato dalla ipossia. Per esempio il paziente, oltre ad avere la ferita cerebrale, respira pure male, magari c'ha le cellule che sono in penombra, che avrebbero bisogno anzi di maggiore sangue, dalla ipertensione endocranica, perché quando aumenta il sangue nella testa la pressione endocranica aumenta tanto, e dalla cascata infiammatoria, quindi una serie di reazioni cellulari, macrofagi, linfociti, che comunque tendono a procurare vasodilatazione e febbre. Ovviamente la febbre di 37,5-38 aiuta l'organismo a difendersi, ad accelera le funzioni, velocizza i processi di rimozione, eccetera. Dopo 38,5 è tossica, ti aumenta l'edema cerebrale, non collabora più il paziente, peggiora. La febbre dopo i 38,5-39 diventa patologica e va trattata subito. E però il danno secondario è quello trattabile da noi. Da noi, dai buoni rianimatori, dalla buona fisioterapia, perché può intervenire la fisioterapia in ambito precoce per evitare per esempio flebotrombosi, cioè una immobilità prolungata e che non è rara. E poi abbiamo detto che noi valutiamo il coma, questo ve l'ha detto sicuramente Pastore, con il sistema del Glasgow Coma Scale. Noi stiamo a 15 tutti, il minimo il paziente è molto grave, stiamo a 3. Cita qui che quando il paziente è in coma decortica, significa che è un paziente che non risponde, è un paziente che respira da solo, è un paziente che se tu lo pizzichi tende a flettere gli arti superiori in questa posizione. È un riflesso automatico che denota che tutto il mantello cerebrale è compresso, però tutte le funzioni vitali sono conservate. Siamo ben sopra, abbiamo detto a tutto come è possibile, e il ponte dove il coma è appena sperabile. Ponte, abbiamo detto, reazione di bambola e esame per capire se siamo calorico. Allora, invece quello decerebrato, se il paziente il coma respira da solo, giace sul letto, lo pizzichi ed estende gli arti superiori. È una lesione che sta a livello mesencefalico. Che cos'è mesencefalo? Chi lo sa? È una parte del tronco dell'encefalo, la parte più sopra o la parte più sotto? Superiore, chiamati anche peduncoli cerebrali. Va bene. Quindi credo che dietro c'erano tutte le spiegazioni del coma. Allora, vedete che la scala di Glasgow prende in considerazione tre elementi. Cominciamo con l'attività motoria, si divide in 6 punti, quindi noi stiamo a 6. Vediamo i comandi, ma siamo anche autonomi. Comunque, sopra la vedete i comandi, non c'è il numero 7. Il paziente che sta recuperato, muovi la mano sinistra, eccetera, punti 6. Localizza il dolore, cioè sta mezzo confuso, però lo pizzichi, lui va con la mano a toglierti la mano, localizza il dolore. Si sottrae al dolore. Lo pizzichi e si cerca di togliersi in questa posizione, decorticato, abbiamo detto decorticato, decerebrato, oppure non si muove, uno non si muove, quindi 3 è decorticato, 2 è decerebrato, 6 è normale. Attività verbale è orientata, che giorno è oggi? Giovedì, va bene? Confuso, inappropriato, ti risponde con le barzellette così, sì, no, incomprensibile, non c'è nessuna risposta. Quindi sono 5 elementi. Apre gli occhi spontaneamente, apre gli occhi a comando, apre gli occhi al dolore e non apre gli occhi. Quindi sappiate che questo è il tipo di nostro orientamento quando vediamo il paziente. Generalmente quando il paziente va sotto a 8, la cosa è di una gravità seria, tipo 3, attività motoria, 2, attività verbale, e apre gli occhi soltanto danno secondario, torniamo a ripetere, evitiamo l'ipotensione. Lo conoscete in inglese, sì o no? Allora, evitiamo l'ipotensione, evitiamo l'ipossia e poi identifichiamo con la TAC, perché oggi la TAC si fa facilmente, se dobbiamo togliere l'ematoma che aumenta la pressione intracranica e se c'è un edema cerebrale, per esempio, altra cosa. Un bambino, vi capita a voi che state anche là in corsia, di 2 anni, che arriva agitato perché ha battuto la testa, la TAC non fa vedere nulla, però sappiate che i bambini non hanno spazio per avere un cuscinetto che sopporta l'edema che sta crescendo nel cervello. L'errore più grosso è mettergli dei liquidi. Non ha mangiato a pranzo, mettiamo dei liquidi. Quasi sempre muoiono. A 2 anni, se tu gli metti dei liquidi, ti vanno in coma iperacuto e non ne acchiappi più. Devono stare senza liquidi, si devono asciugare, devono bere loro con la sola loro volontà quando si svegliano meglio. Le flebo sono pericolosissime, a bambino di 2 anni, di 3 anni. Va tutto nel cervello quel liquido, ma poi si instaura il circolo vizioso. Tanto più si riempie di acqua, tanto più si riempie di acqua, perché c'è l'edema massivo. In quanto c'è l'ischemia globale del cervello. Mentre nell'anziano che ha tanto spazio perché il cervello si è invecchiato, si è assottigliato, si è ridotto di volume, difficilmente, anche se tu gli fai 1000 di liquidi, sta confuso, rimane confuso, non va in coma. Ecco, dopo un trauma si deve avere il trauma. La natura nel trauma ti lascia disteso, senza mangiare, senza bere, e aumenta la zootemia perché ti comincia a consumare i muscoli per nutrirti. Sono tutti e 3 fattori che riducono la pressione intracranica, cioè uno che cade in un bosco e non ha fratture però ha battuto la testa, se non è inverno che muori di freddo, dormi 2 giorni ma poi ti svegli se non hai l'ematoma. Se tu invece ti vengono a prendere, ti riempiono di liquidi, bisogna vedere come va. Anche nel ventenne, nel 25enne, nel 30enne. Innanzitutto poi subito si fa un foro, si mette una sonda, a volte la natura è superiore. Se non c'è la lesione chirurgica, se tu lo lasci a letto, senza mangiare, senza bere, naturalmente valutandolo, perché se te lo chiede o sete eccetera eccetera, lo fai bere o gli fai un po' di liquidi, ma se non te lo chiede non fai male a non fare niente, è il modo migliore per farlo riprendere prima. Ma ci vuole un po' di coraggio, specialmente nei bambini, perché hai i genitori che ti stanno addosso. Non ha mangiato, non ha bevuto. Scusi, la zootemia combatte l'edema perché aumenta il drenaggio linfatico? No, perché aumenta la diuresi. L'urea presente nell'azoto si scatena un meccanismo di ciclo della diurea dall'azotemia per eliminare l'azoto in più. Si scatena un ciclo dell'urea, aumenta l'urea nel sangue, viene aumentata la diuresi per quello che è necessario e ti asciuga il cervello. Quindi, diciamo, abbiamo fatto dei danni nel passato con i bambini. Bene, allora. Non si può drenare, sì, devi fare il manitolo, devi fare dei diuretici, no? Lo devi medicalizzare con i diuretici, per cui tu lo devi asciugare con i farmaci. Qualche volta però questi farmaci comportano anche l'introduzione di altri liquidi. Quindi diciamo, va spiegato bene al genitore che la medicalizzazione o è fatta per perfetta e allora devi pure curare la testa, non è che sia il massimo, però oggi diciamo che ci sono gli schemi, noi prima di questi schemi, perché sono tanti anni, eravamo autorizzati, si può dire, a percorrere questo percorso, diciamo, un po' temerario, bene, ma con risultati buoni. Allora, va bene, il meccanismo dell'ipotensione è chiaro che l'ipotensione, diciamo, della risparmia, no? L'ipossia, non lo capite, il meccanismo per cui non arriva abbastanza ossigeno, ci sono cellule già morte e cellule nell'edema che hanno bisogno di essere ossigenate, e i valori devono essere almeno sopra 60 mm di mercurio. Allora, la pressione intracranica può essere aumentata per due cause, da edema o da lesione di massa. Lesione di massa, l'ematoma, che può essere dentro il cervello oppure esternamente al cervello. Sono entrambi però situazioni complicate, perché voi immaginate che la corteccia è sensibile, ha bisogno di essere irrorata. Il nostro cervello galleggia come una vela dentro alla grappa, sta dentro la bottiglia, galleggia, non appoggia. La corteccia della pera, diciamo, non è pressionata, non è spinta dal liquor, e i capillari che vanno a pressione bassissima, i capillari vanno a pressione quasi zero, c'è una pressione molto scarsa nei capillari che nutrono le cellule corticali. Basta poca pressione per impedire ai capillari a nutrire la corteccia. Allora, un conto che tu non nutri la pelle e un conto che nutri la corteccia. Dopo un po' di tempo la corteccia muore. Allora, dobbiamo essere attivi, in quanto ti ripeto che il cervello è in una scatola chiusa, quindi basta poco, basta iniettare una siringa da 20 di sangue nel cervello, dentro la testa, per aumentare la pressione intracranica. Se tu per esempio prendi una bottiglia tappata, piena di acqua, ci metti un ago e vuoi inserirci 20 cm cubi, non ce la fai. Nel cervello della testa ce la fai, perché il cervello si collassa, ma collassandosi ce la fa la rottura dell'arteria. L'arteria c'ha pressione 120 mm di mercurio, nel cranio trova pressione 6-10 mm d'acqua, quindi c'ha un'enorme forza l'arteria per conquistare lo spazio dentro la testa a spese del cervello che diventa cedevole, e tu devi andare a liberare questa pressione. Una lesione così, per esempio, voi immaginate che questa corteccia è tutta quanta non più irrorata, per cui o fai subito oppure non riprende più la forza dalla parte opposta. Voi sapete che la forza, la volontà parte dalla corteccia, e la striscia motoria è la preolandia. Sapete, la corteccia è divisa da due grosse scissure, la temporale e la rolandica. La prerolandica è quella dove ci sono, diciamo, le cellule che danno la volontà del movimento, se tu me le schiacci, il capillare è abituato a viaggiare quasi a zero di pressione, ci metti 120 mm di mercurio, è chiaro che tutta la corteccia là si ischemizza, e se non glielo togli subito non recupera più. Poi c'è la plasticità neuronale, altre cellule vanno a vicariare, ma non c'è il recupero pieno. Se impazzite vive perché dopo che togli questo ematoma c'è un grosso edema di rimbalzo. Tutta la parte morta, diciamo, richiama acqua, i capillari sono rotti, quindi esce siero, c'è tutto un processo infiammatorio che aumenta l'edema. E poi va bene, il danno razionale di diffuso è una situazione di associato all'edema generalizzato, lo abbiamo preso nel bambino e quindi è come uno scuotimento del cervello, c'è tante piccole zone dove i neuroni si sono distaccati uno dall'altro, c'è uno stato di confusione, non c'è segni di paresi e ci può essere un aumento di pressione non immediato. Abbiamo tante piccole lacerazioncine alla risonanza magnetica, non è di competenza chirurgica. Allora, andiamo avanti. Va bene, sapete che quando c'è un edema il cervello trova spazio dalla parte opposta, sotto la falce, si chiama enneazione del cervello schiacciato dalla parte opposta, sotto la falce. Vero? Poi c'è un altro tipo di erniazione che quando il cervello ha bisogno di ulteriore spazio ernia attraverso il tentorio e quindi è il cervello che viene a occupare lo spazio del mesencefalo, perché se il cefalo viene compresso o spinto verso il basso. Va bene. La pressione intracranica è chiaro che è tollerabile fino a un certo livello, è inutile che vi spieghiamo tutte le problematiche, è chiaro che comunque la pressione intracranica può aumentare, abbiamo detto, per fattori vascolari, per fattori liquorali o per fattori encefalici. Se uno ha purtroppo un tumoraccio, cresce, aumenta la pressione intracranica. Un'emorragia, un corpo estraneo nuovo, se c'è una ostruzione del flusso liquorale, l'acqua che continua ad essere prodotto, non viene riassorbito, ristagna liquor nel cervello e quindi aumenta la pressione intracranica. Poi parleremo di idrocefalo, si chiama idrocefalo, sapete cos'è l'idrocefalo? Va bene. Questo è il famoso circolo vizioso che dicevo per i bambini. Allora, il trauma aumenta la pressione intracranica, diminuisce il flusso cerebrale, si produce ischemia nel cervello, aumenta l'edema, aumenta la pressione intracranica. Se tu gli permetti questo circolo a un bambino di 2 anni, è grasso che cola, se riesci a salvarlo è molto difficile, non bisogna mai innescare questo meccanismo del bambino. Per esempio, io faccio un esempio banale un po', ma ricordate quel caso della infermiera che è caduta dopo un pugno? Se avete visto com'è caduta, è caduta dando una forte capocciata a Luca. E all'inizio si era quasi ripresa dopo che si è ricoverata. È quasi certo che sia morta per un edema diffuso, perché ovviamente non è stata operata perché l'edema. Però i liquidi si sono incarcerati nell'edema che si è procurato. A volte, vedendo i primi miglioramenti, non ha mangiato. Oggi noi siamo un po' in contrasto con alcune regole della rianimazione. che mirano a non impoverire il corpo delle sue difese, delle sue energie, quanto prima tendono a dare da mangiare, quanto prima tendono a nutrirli. Dice, va bene, non facciamo tanti libri, però sono 2 giorni che non sta mangiando, il metabolismo, il piano. Noi non siamo favorevoli, ma non siamo sempre riusciti. E quando va nell'eliminazione, per fortuna con la sonda si rendono conto che sta salendo la pressione, però qualche volta non sempre sono convinti che è il cibo che comunque porta un po' di liquidi in più in circolazione. Bisogna asciugarli questi, bisogna asciugarli in, come dire, è come se tu stai cercando di tirare via uno che sta precipitato, bisogna tirarlo su tutto il periodo. Poi naturalmente no, c'è tutto un processo, questo qui lo dico e qui lo ritiro, però quando capita che sta migliorando un po' e poi precipita senza intervento, è un edema, è un edema. Sì. Forse sono una persona di più, però non è più semplice a questo punto fare spazio con gli animali della natura. Sì, lo facciamo, lo facciamo. Ma se tu comunque continui con il principio, io dico, ma grossolanamente, perché poi ci saranno 100 motivi per cui bisogna fare anche come dicono alcuni animatori, non tutti gli animatori, perché mi è capitato di vedere il figlio dell'animatore riprendersi bene con quello che sto dicendo adesso. Si è messo l'animatore vicino al padre, facciamo come ha pensato, ed è uno di quelli che ci capiva molto. Perché voglio dire, se tu non cambi mentalità, anche se ti togli l'osso, innanzitutto è un intervento. Sì, è un intervento. È uno dei sistemi salvavita, quello di Apivella. Sì, addirittura si toglie tutto qui la fronte, si toglie tutta la fronte, si toglie qua, ma il cervello esce proprio di artificio poi, attenzione. Se tu non regoli bene la pressione intracranica, se tu non ti azzardi a esagerare in questo asciugare. Nelle donne giovani una botta di questo genere, già per esempio quando tu gli dai il tubo, la fai respirare, facciamo il coma farmacologico, oggi si fa il coma farmacologico per forza, non esiste che te lo tieni senza coma farmacologico come ha fatto questo rianimatore accanto al figlio. No, dice, se non respira gli do il tubo, se respira lo lascio respirare. Ma oggi se viene un in coma in reanimazione lo intubano, perché controllano il respiro, controllano i parametri, lo sedano, tutto tranquillo. Però ogni volta che la pompa manda ossigeno dentro, preme le vene verso la testa. Non è come noi che respiriamo e tiriamo il sangue giù dalla testa. Quando ci apriamo scende bene il sangue dalla testa. Quando siamo in coma e intubati, il sangue non vuole più scendere dalla testa perché c'è una pressione positiva. Insomma, il trattamento dell'edema ci affidiamo a questa sonda. Comunque certe volte buchiamo il cervello, ci dispiace, però sapendo le curve che devono affrontare gli animatori, che non tutti sono convinti di quello che vi sto dicendo e non è Vangelo, però fatto sta che quando eravamo meno attrezzati, parlo di 30 anni fa, diciamo che andavano benino, oggi vanno benino, bene forse, ma qualcuno lo perdiamo per questo meccanismo qua, perché non abbiamo avuto la condivisione mentale scientifica con gli animatori, i quali più di uno sono bravissimi, oggi hanno, non solo misurano la pressione intracranica, misurano il flusso, misurano il lattato, quindi se vai in ischemia cervello vedono l'acido lattico, vedono, ma poi la terapia se tu mi continui a dare 2000 di liquidi bianchi, quelli che producono calorie, la nutrizione parenterale, perché io devo avere un metabolismo normale, me lo porti normale. Tutto il prodotto, per esempio, se io mi mangio una crema, molta di questa crema, oltre che in calorie, si trasforma in acqua, la devo nel metabolismo, il grasso si trasforma in acqua quando lo metabolizzo. Devi calcolare l'acqua endogena, l'acqua esogena. Il cervello è come se fosse un porto di mare, tutto quello che passa, tra l'altro poi il cervello traumatizzato perde la sua difesa, che è la barriera ematoencefalica. La barriera ematoencefalica è una barriera stretta tra i capillari e i neuroni, che non permette che qualunque cosa vada nel cervello. Per esempio, il vino subito entra nel cervello perché è liposolubile e supera la barriera ematoencefalica. L'alcol, tutte le sostanze liposolubili, le droghe, eccetera, vanno direttamente al piombo nel cervello perché la barriera non le ferma. Però se mi faccio un antibiotico io, perché ho un accesso cerebrale, molto spesso l'antibiotico mi cura tutto nel cervello, perché eccetto una zona dove non si è formato proprio l'ascesso, ma c'è ancora l'infiammazione e la barriera è rotta, dove c'è l'infiammazione, là passa l'antibiotico. Se io mangio, dopo un trauma cranico, gli amminoacidi, il sale, l'azoto, il glucosio, grezzo, mi vanno nel cervello, non c'è più la barriera e quindi ho la febbre, ho una serie di cose. Ora, sto fatto per la nutrizione, io credo che fra qualche anno arriveremo ad avere un linguaggio comune con gli rianimatori, i quali hanno delle responsabilità legali, per cui dice come ci abbiamo il monitoraggio del respiro, il monitoraggio della pressione, il monitoraggio della coscienza, che non dobbiamo mettere in funzione. Quindi questo è un argomento comunque voi frequenterete frequentemente le rianimazioni, perché dove sappiate che si dibattono certi argomenti ancora. C'è molto da dire, ma naturalmente non è, ripeto, non è condiviso da tutti. Fatto sta che noi, per esempio, questo non vi deve scandalizzare, in epoca antica, quando la rianimazione era ancora ai primordi, la facevamo noi nel reparto, c'eravamo dei respiratori, non avevamo le competenze attuali, ci siamo fatti un'esperienza pratica. Comunque la regola nostra è che per 20 giorni, mi sembra una cosa esagerata, cibo zero. Venivano pazienti come quella ragazza là che dorme quasi e, diciamo, dopo 20 giorni si svegliava, ma aveva perso tanti chili, tanti. Era uno spettacolo positivo quando erano quelli grossi. Per cui io so che per 20 giorni non succede niente. Sappiate, se non mangiate per 20 giorni non vi succede niente. Però dovete bere giusto. Ma l'idratazione era molto limitata. Non succede niente, veramente 20 giorni è tollerato all'organismo. Ma oggi è improponibile, se lo vai a dire. Però in certi casi è stata la vita. Comunque questo meccanismo è fondamentale. Vabbè, dobbiamo rompere questo circolo vizioso. Dobbiamo sopportare la pressione sanguigna, trasfusione di sangue e l'ossigenazione. Dobbiamo rimuovere le lesioni occupate spazio. Dobbiamo usare una buona farmacologia, sapendo quelle che per esempio sono tossiche per il cervello, la barriera ematoencefalica è rotta. dobbiamo iperventilare per cercare di, siccome l'iperventilazione vasocostringe i capillari del cervello, le renule, riduce la pressione intracranica, però dobbiamo saperlo fare. Dobbiamo usare il cortisonico nelle forme tumorali, nelle forme di riduce l'edema, nelle forme tumorali, nelle forme traumatologiche non riduce l'edema nello fiano, anzi predispone alle infezioni. Le ultime frontiere sono l'ipotermia, mentre questo tirilizzad oppure il TAM, che è un antiacido e bicarbonato praticamente, ne usiamo molto poco se non in casi di arresto cardiaco. Vabbè, guarda, non è che questo qui diciamo è importante, queste sono cose che si studiano nel primo soccorso. Va bene, quindi vi ho detto che da 3 a 8 è trauma grave, da 9 a 12 è moderato, per quanto riguarda il Glasgow Coma Scale, da 12 a 15 è leggero. Sappiate però che il trauma leggero ripetuto, quello che succede nei campi di calcio, oggi c'è un maggiore obbligo legale che il calciatore che diciamo sta un po' confusino dopo una testata, oggi lo fanno rientrare sempre, è un campione, deve giocare, però le doppie testate, 2 più 2, 1 più 2 non fa 2, fa molto di più, è stato visto che lascia dei segni a livello di controllo risonanza, c'è un accumulo di determinati metaboliti nel cervello che dimostrano una sofferenza dei neuroni, per cui non dobbiamo arrivare che il calciatore arriva suonato giovane a termine carriera. Un trauma dopo l'altro non è uno più uno, è dimostrato oggi anche nei Glasgow Coma Scale leggeri, per cui forse ci sarà una legge che vengono fatti uscire anche i campioni anche se la squadra perde. Vabbè, la nissocoria, quando una pupilla è dilatata e l'altra è normale nel trauma cranico, ci allarma perché vuol dire che c'è una erniazione sotto falcale, oppure addirittura un'erniazione associata a quella transuncale, per cui il terzo nervo cranico viene schiacciato dal globo temporale che si sta impugnando sotto la falce. Il terzo nervo cranico schiacciato, primo segno non è la paralisi del movimento ma è la dilatazione della pupilla. Allora quando è una nissocoria, soprattutto la testa, generalmente è da operare. E va bene, questa abbiamo detto che l'esame neurologico l'abbiamo già detto. Le radiografie, certamente che quando uno batte la testa non ci fermiamo a fare soltanto l'attacco della testa, ma facciamo l'attacco anche della cervicale. Perché se uno per esempio fa un trauma facciale, generalmente c'è anche una grossa iperestensione del collo e non è raro che si rompa perlomeno il legamento longitudinale anteriore, oppure un disco, oppure addirittura un corpo, oppure quando c'è una grande iperestensione, sono meno pericolose, si possono fratturare le spinose. Che cosa sono le apofisi spinose? Sono appunto una parte della cintura posteriore della vertebra. Vabbè, abbiamo detto che oggi comunque l'attacco nella traumatologia è molto importante. A volte siamo costretti a fare anche la risonanza magnetica. Possiamo avere un ematoma epidurale che è sotto l'osso, un ematoma sottodurale, appunto, che è sotto la dura ed è molto più pericoloso. oppure il nodo manifero cerebrale, abbiamo detto prima. Va bene. Poi tutte queste cose ti servono poco. Dobbiamo evitare appunto di favorire l'edema. Ecco, una frattura così per esempio, se il paziente non ha segni di interessamento neurologico e non è una ferita sopra, si può anche non operare. Si può anche non operare, perché immaginate che questo avvallamento, se la dura è integra, il cervello viene a soffrire molto poco. Però se l'elettroencefalogramma dimostra che lì c'è una zona di irritazione, andiamo a sollevare l'osso, intervento piuttosto semplice. Va bene, l'ematoma epidurale o subdurale ve l'ho già detto, questo è una epidurale, se non è evolutivo non li operiamo più. Con l'attacco vediamo che si è fermato, il paziente non ha le fibaresi, questo in 3 settimane si riassorbe, il cervello piano piano lo caccia via, si scioglie e viene riassorbito dall'osso, quindi evita l'operazione. Prima si operavano subito perché si temeva che di notte moriva eccetera, però oggi se non c'è lo spostamento per linea mediana, se il cervello qua al centro è perfettamente linea mediana e non ha sintomi, non lo operiamo. E questo è il subdurale invece che si deve operare sempre perché comprime gravemente tutta la corteccia dell'emirato, quindi la corteccia muore dando dei grossi danni e poi togliendo l'osso, sappiamo che si produce un enorme edema, quando operiamo non rimettiamo più l'osso, collega, quando operiamo questi non rimettiamo più l'osso, perché sappiamo che si gonfia moltissimo il cervello, e allora è inutile mettere l'osso, anche se adesso il cervello sembra tutto schiacciato là, appena vai a togliere il sangue da sotto la dura, tu vedi che la corteccia, che invece di essere rosea, è pallida, e comincia a crescere come un fungo. E non puoi più mettere l'osso. L'edema citotossico. E l'edema, no, è vasogenico. Citotossico generalmente, c'è una componente citotossica perché il succede di notte. Però quando c'è, si spera del tempo, si riassorbe oppure si fa molto plastico? Se campano, molti questi 50% muoiono. Poi si fa una plastica, l'osso prima veniva conservato nel frigorifero, eccetera, poi abbiamo visto che si può riassorbire. Veniva conservato sotto la pancia, abbiamo visto che si può riassorbire anche nella pancia. Per cui tendiamo o ad avere una banca dell'osso perfetta, almeno 70, cioè non ce l'abbiamo. Non mi pare che c'è la sopra cattolica, ma... oppure mettiamo la resina clinica, facciamo delle plastiche, è più dura dell'osso. Questi acuti sono molto pericolosi, poi quando sono piccoli vengono lavati dalla lipo e se forma quello cronico, lì basta un forellino per aspirare e guariscono. Per cui se vi domandiamo la differenza tra l'ematoma acuto e quello cronico dovete saperlo. Che ne abbiamo fatto? 3 e mezzo. 3 e mezzo solo? Fino a che ora dobbiamo arrivare? 5. Direi di fare un momento di pausa e poi finiamo. Io vado a vedere come sta quello là. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Va bene? Lascio tutto qua. E poi mi avete fissato dove stanno? Okay.